Europa 24. In studio Daniele Biacchesi. Peggiorano le stime dell'Unione Europea sul deficit italiano. A maggio Bruxelles prevedeva un 2,9% nel 2013, oggi sale invece al 3%, mentre il 2,5% che aveva previsto nel 2014 sale al 2,7%. Dopo i grandi sforzi del 2012 rallenta la correzione di bilancio, scrive la Commissione Europea, che a politiche invariate prevede nel 2015 un disavanzo al 2,5%. Secondo il commissario Olli Rehn, il governo italiano dovrà ora assicurare il finanziamento di ogni cambiamento della legge di stabilità. I fondi dell'Unione Europea raggiungono il 47,5% della dotazione totale. Una volta tanto le notizie sull'utilizzo dei fondi strutturali da parte dell'Italia sorprendono in positivo. Dopo anni di sottoutilizzo dei finanziamenti comunitari, gli ultimi due governi sembrano aver impresso un'accelerazione significativa nell'impiego dei fondi europei, che in altri paesi hanno contribuito allo sviluppo e alla modernizzazione delle aree più depresse. I dati, secondo l'ultimo report del Ministero per la Coesione Territoriale, sono moderatamente positivi. Il target di utilizzo dei fondi è stato superato a ottobre di 4 punti. Probabilmente ha inciso pure il richiamo estivo del commissario europeo alle politiche regionali Johannes Hahn, che invitò l'Italia a concentrare le risorse disponibili su poche e chiare priorità. Hahn si riferiva ai 31 miliardi di euro utilizzabili da qui al 2015, pena la loro perdita. In 6 mesi dunque l'accelerazione, che non nasconde però le disparità territoriali. Al nord si raggiunge il 57,1% della spesa certificata, percentuale che al sud si ferma al 43,1%, anche se in quest'ultimo caso pesano i tempi di attuazione più lunghi delle opere infrastrutturali, tipiche dell'obiettivo convergenza. Da tenere d'occhio ora la scadenza del 31 dicembre, in quella data scatterà la tagliola dei fondi per i programmi operativi che non raggiungeranno gli obiettivi comunitari. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la fine del 2013 si compirà il secondo programma pluriennale d'azione in materia di salute messo a punto dalla Commissione Europea nel 2008. Dal gennaio del prossimo anno partirà il nuovo programma nel contesto della strategia Europa 2020. In quale misura i cittadini europei hanno uguale accesso a un'assistenza sanitaria di qualità? Viene garantita in tutti i paesi un'uguale capacità di intervento e supporto nelle diverse patologie? Questi gli interrogativi di fondo dei programmi d'azione in materia di salute messi a punto dalla Commissione europea. Il secondo, 2008-2013, si avvicina alla conclusione. Il terzo, Salute per la crescita 2014-2020, partirà a gennaio con l'obiettivo di integrare gli sforzi degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari. Il tutto nel contesto della Strategia Europa 2020. Il piano per la crescita dell'Unione Europea in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica e in quello del settennato 2020, senza contare che stanno per diventare realtà le cure transfrontaliere, sancite dalla direttiva comunitaria entrata in vigore il 25 ottobre scorso, in fase di ritardato recepimento in molti paesi. Oreste Rossi, membro della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare dell'Europarlamento. Il problema principale è che oggi noi abbiamo 28 stati con 28 sistemi sanitari differenti e all'interno di ogni stato esistono regole differenti. In Italia, ad esempio, è regionalizzata, quindi ogni regione può avere un sistema differente. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo di sacchetti di plastica e del suo utilizzo in Europa. Si usano per pochi minuti, poi si gettano via, ma in natura restano per centinaia di anni, causando enormi danni ambientali, soprattutto agli ecosistemi marini. Sono i sacchetti di plastica, soprattutto quelli leggeri con cui si fa comunemente la spesa e che spesso per le loro piccole dimensioni sfuggono ai flussi di gestione dei rifiuti. Ogni europeo usa in media 198 sacchetti l'anno e 8 miliardi finiscono per diventare immondizia. Per questo la Commissione europea ha lanciato ieri una nuova offensiva contro le buste di plastica light, tecnicamente una proposta di modifica della direttiva sugli imballaggi. I'm happy to announce that today the Commission has adopted a proposal to reduce the use of lightweight plastic bags, an obligation for all member states to reduce the use of lightweight plastic bags while giving them the flexibility to choose the measures to reach that goal. Una proposta che, se approvata, spiega il commissario UE all'ambiente presidente Janez Potocnik obbligherà gli stati membri a ridurre l'uso dei sacchetti di plastica e materiale leggero. Sulle misure per farlo, ogni stato potrà decidere se ad esempio imporre una tassa oppure un divieto di vendita o commercializzazione con relative sanzioni. Una messa al bando che prende spunto niente po' di meno che dall'esperienza italiana. Il nostro paese infatti, come si sa, ha vietato la commercializzazione delle sportine già dal 2011 in favore dei sacchetti compostabili in bioplastica o delle tradizionali borse durevoli per la spesa, una restrizione di mercato che è costata all'Italia anche una procedura di infrazione da parte della UE, procedura che, ha fatto sapere oggi Potocnik, a questo punto potrebbe essere congelata. Insomma, almeno sui sacchetti di plastica, l'Italia ha fatto scuola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Per Europa 24 di oggi vi saluta Daniele Biacchiesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.